Siamo con Jacopo Storni, che è autore del libro Siamo tutti terroristi, dal 17 maggio in libreria. Jacopo, benvenuto. Ciao, buongiorno, grazie dell'invito. Come lo presenteresti questo tuo lavoro? Ma innanzitutto il titolo Siamo tutti terroristi è un titolo volutamente provocatorio che intende ironizzare, ovviamente con provocazione, sugli stereotipi con i quali vengono sempre rappresentati gli immigrati, no? È un libro che nasce proprio da questo, da una frustrazione anche giornalistica, perché poi alla fine faccio il giornalista, e cioè la frustrazione è quella di vedere rappresentati gli immigrati sempre nello stesso modo, immigrati uguale profughi, immigrati uguale rifugiati, richiedenti asilo, immigrati uguale trascioni, poveracci, delinquenti o terroristi. Ecco, io credo fortemente che finché noi giornalisti, ma anche il mondo della politica, continuerà a rappresentare gli immigrati come profughi, poveracci o terroristi, gli immigrati nell'immaginario collettivo resteranno sempre profughi, poveracci e terroristi. Quindi, visto che in Italia ci sono 5 milioni di immigrati tutti regolari, credo che sia importante contribuire a cambiare narrazione, quindi cambiare una narrazione che non sia più paternalista e pietistica, ma che racconti anche l'altra faccia dell'immigrazione, ma non per andare controcorrente o per essere ganzi, ma semplicemente perché l'altra faccia è quella più numerosa. E quindi in questo libro io ribalto un po' lo stereotipo dell'immigrato e racconto gli immigrati imprenditori, perché è giusto raccontare i profughi, mi si dirà, perché sono 200.000 e sono tanti, ma se vale il discorso dei numeri, allora è giusto, come cerco di fare, raccontare anche gli immigrati imprenditori, che non sono 200.000 come i profughi, ma sono 550.000. E poi racconto gli immigrati ingegneri, gli immigrati medici, gli immigrati architetti, avvocati e anche tutti, oltre ai personaggi, anche una serie di luoghi dell'integrazione, anche qui per ribaltare i luoghi comuni, no? Oggi noi parliamo di integrazione soltanto in termini di barricate, quando invece l'integrazione in molti luoghi d'Italia, in molti paesi, in molte città, in molti borghi è una realtà conclamata. E quindi Baranzate, che è il comune più multietnico d'Italia, in provincia di Milano, Campi Bisenzio, dove italiani e cinesi convivono sinergicamente, oppure Riace, Acqua Formosa, due paesini in Calabria, letteralmente salvati dallo spopolamento grazie alla presenza dei profughi. Ecco, quindi racconto questo tipo di immigrazione che nei telegiornali purtroppo non trova spazio. Jacopo, come nasce il libro? Proprio da questa esigenza, questa spinta di partenza? Sì, nasce da questo. Io faccio il giornalista, il cronista, insomma, per il Corriere, per il redattore sociale, e anch'io, diciamo, sono sempre cascato un po' in questa trappola pietistica, no? Per anni e anni, cosa ho fatto? Sono entrato nei centri di accoglienza, oppure magari sono andato nelle occupazioni, oppure lungo le strade, lungo i marciapiedi a trovare queste storie drammatiche, queste storie di grande emarginazione, di grande marginalità, e quindi sempre un po' le solite domande nei centri di accoglienza: da dove vieni, quanto è durato il tuo viaggio, dove sei sbarcato, Lampedusa, oppure Pozzallo, oppure Porto Empedocle, in quale centro profughi sei transitato, quali sono i tuoi sogni, da dove vieni. Ecco, una narrazione un po' omologata e standardizzata, che non dico non sia giusta, per carità, è importantissimo raccontare, perché questa è l'attualità e non possiamo prescindere dall'attualità, però dopo un po' mi sono un po' stancato, insomma, di questa narrazione omologata e standardizzata, il cui rischio secondo me è un'assuefazione, così come anche la guerra in Siria, prendiamo, no? Questo racconto da 6 anni della guerra in Siria, Homs, Aleppo, Damasco, insomma, alla fine, a forza di sentire tutti i giorni le stesse cose, il rischio è quello dell'assuefazione, quindi credo che sia importante innovare un po' la narrazione per renderla più creativa, ma anche per raccontare un po' le cose come stanno. Ecco. Jacopo, che giri hai fatto da nord a sud, dalla città alla provincia e quante storie hai raccolto? Ma senti, sono in tutto sono 25 storie, sì, da nord a sud, incontrando tanti personaggi, immigrati di successo. Ad esempio, mi viene in mente, partendo dal nord, da Milano, la storia di questa ragazza nera togolese che si aggira spesso per i tribunali di Milano e nei processi viene spesso scambiata per l'inquilina morosa, quando in realtà Dedeo Clay, questo è il suo nome, è l'avvocatessa, e quindi desta un po' stupore per il giudice perché il pregiudizio fa sì che lei venga scambiata come l'inquilina morosa e quindi la parte debole, diciamo, dei processi. Oppure una storia simile è quella a Borgo San Lorenzo, in Mugello, e quindi siamo nell'Italia centrale, che è quella di un signore somalo che si chiama Fuad, che si aggira nei corridoi dell'ospedale per lavoro. Tutti i pazienti, quando lo vedono, gli dicono: "Mi scusi, infermiere, io insomma la ringrazio per l'aiuto, ma vorrei parlare con il primario, perché lui soltanto può aiutarmi e può dirmi qual è il mio problema e come fare a guarire." E questo signor Fuad gli dice: "Signora, guardi che il primario sono io, sono nero, sono somalo, eppure sono il primario, no?" Quindi c'è un primario somalo nell'ospedale di Borgo San Lorenzo che ribalta tutti gli stereotipi e destabilizza e spiazza un po' tutti i pazienti. Insomma, tante storie come queste. Poi vado anche in Calabria, vado anche in Sicilia, una storia molto bella, storia di integrazione, è quella di una coppia italiana, siciliana di Messina, che ha due figli italiani e che ha fatto un gesto di altruismo estremo, di generosità estrema, adottando e facendo entrare nella propria famiglia due profughi, non piccoli, ma due profughi di 18 anni, quindi allargando la famiglia in questo modo. Insomma, storie anche di un'altra Italia, se Sì. vogliamo, in tempi di egoismo, in tempi in cui insomma, l'altruismo sembra diventato buonismo e quasi una vergogna. Insomma, è bello riscoprire storie di grande umanità come queste che ho raccolto, e quindi insomma, il merito non è mio, il merito è dei personaggi che racconto e che ho incontrato in lunghi incontri anche di giorni, e l'ho fatto per cercare appunto di ribaltare un po' gli stereotipi sugli immigrati e di far emergere anche l'Italia positiva che c'è al di là del clamore dell'attualità. Sia prime che seconde generazioni? Anche seconde generazioni, sono soprattutto prime generazioni, ma insomma poi nel contesto dei capitoli si viene a incontrare anche seconde generazioni, come ad esempio a Campi Bisenzio, dove un consigliere comunale, Angelo U, è appunto di seconda generazione, è uno dei motori, diciamo, dell'integrazione a Campi Bisenzio. Diciamo, i personaggi principali sono tutte Ok. prime generazioni, però insomma nel Sì. contesto poi ci sono anche le seconde generazioni. C'è un capitolo anche ambientato in una scuola a Firenze, dove il 50-60% degli alunni è di origine straniera. Sì. Jacopo, mi incuriosiva il discorso sulle realtà, su quei comuni virtuosi in questo senso. Ci sono dei casi che ti hanno sorpreso e in che modo e come funziona lì? Ma senti, questo in particolare è un capitolo del libro, è ambientato ad Acqua Formosa, che è un paesino che calabrese, arrampicato sul Pollino, quindi insomma in montagna, dove io ci sono stato sia 10 anni fa sia un anno fa per 10 anni fa per fare un articolo sul Corriere, un anno fa per fare un capitolo del libro. 10 anni fa questo paesino stava letteralmente morendo, per strada si vedevano anziani claudicanti con i bastoni, in carrozzina. Invece l'anno scorso, quando sono andato lì, ho trovato un paese totalmente rigenerato. Potrà sembrare demagogia, ma insomma non è così, perché l'arrivo dei profughi, la lungimiranza anche dell'allora sindaco Giovanni Manoccio, ha fatto sì che questo paese si rivitalizzasse. In che modo? Grazie all'arrivo dei profughi. Con i profughi, tanti sono, adesso sono un'ottantina in paese. I profughi hanno fatto sì che si creasse un'associazione, innanzitutto, l'associazione Don Vincenzo Matrangolo, che si occupava appunto dei profughi. Grazie a questa associazione, che si è presa cura di questi 70-80 profughi, tanti giovani del paese, del paesino di Acqua Formosa, invece che andare a Cosenza, a Lamezia, a Catanzaro, a Reggio Calabria o magari a Roma o a Milano, sono rimasti in paese e hanno trovato lavoro in questa associazione che assisteva ai profughi. Di conseguenza poi si è rimessa in moto tutta una microeconomia del paese, proprio grazie al fatto che c'erano i profughi, grazie al fatto che questa associazione stava prendendo vita, grazie al fatto che tanti giovani non uscivano più dal paese ma rimanevano lì dentro. Molti di questi profughi sono andati ad abitare nelle case sfitte, questa è proprio l'unicità, l'unicum di questo paesino che si chiama Coformosa, che non hanno messo i profughi in un mega campo, in un mega tendone, in un mega centro di accoglienza, in una palestra, ma li hanno messi in quelle case che erano vuote, che erano abbandonate, che erano sfitte, e l'associazione ha pagato l'affitto ai proprietari che vivono da altre parti, no? Quindi anche questo ha rimesso in circolo un'economia che ha fatto sì che, insomma, trovare per chiedere, cioè andate da Coformosa e lo vedrete con i vostri occhi, che nel giro di 10 anni questo paesino si è rivitalizzato e anche gli abitanti lo hanno capito, perché insomma, molti potrebbero dire, dopo questa invasione, tra virgolette, dei profughi, la gente poi non vota più questo sindaco che ha fatto arrivare i profughi. Al contrario, il sindaco che ha fatto venire i profughi, che ha rivitalizzato il paesino, è stato rieletto con il 70% delle preferenze. Quindi è una realtà che appunto difficilmente trova spazio nell'attualità, ma che vale la pena di essere raccontata. Jacopo, in chiusura ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Ma riferimenti web, o sul mio Facebook, che insomma aggiorno anche con le presentazioni, oppure molto più semplicemente sul sito di Castelvecchi, che è la casa editrice del libro, in cui potete trovare tutte le informazioni, altrimenti il libro è acquistabile sia su Amazon sia su ibs.it, che è il sito della libreria online, insomma. Jacopo, ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Crepi, grazie mille a voi.